Allora, buongiorno a tutti. Oggi studiamo la seconda parte della lezione su Basar Bechalav, carne e latte, e procediamo direttamente. Il prossimo capitolo parla di come, dove e quando bisogna dividere, tenere separate i due aspetti della cucina, carne e latte. È chiaro che dobbiamo sempre dividere, ma ci sono delle halachot specifiche in questo riguardo. Ora vediamo. Chovat, allora innanzitutto il titolo del capitolo, Hafradah, la separazione, la distinzione, ben basar le chalav, tra la carne e il latte. Chovat ha-hafradah, l'obbligo di tenere distinti, di separare, ben chalav le ben basar, tra il latte e la carne, mechayevet, necessita, ci obbliga a creare tichnun, una organizzazione matim adeguata e adatta, benogea per tutto ciò che riguarda keniat veatkanat, l'acquisto. Quando una persona sta progettando una cucina, allora l'acquisto è il montare della shayish, il banco sul quale il tavolo di lavoro, Akiyorim, i lavandini, Akiraim, la macchina del gas, tanur, forno a fiat dove si cuoce nel forno, Veshear Markiveh HaMitbach VaAvizarav, tutti gli altri elementi della cucina e i relativi, come si dice, Elettrodomestici. sì, elettrodomestici, Avizarav significa letteralmente gli accessori. Quindi bisogna organizzarsi bene, chiaramente, quando uno parte dalla partenza, oltre al conoscere le questioni halachiche relative a questo. Benosafli diata anchayot amatimot, e oltre appunto alla conoscenza delle istruzioni relative, le ofen hashimush becholelu, uso di tutte queste cose, di tutti questi aspetti della cucina, Kadin, così com'è secondo la regola. Ora, l'chaim, ha-hakpada, il fare attenzione, al ha-hafrada, riguardo alla separazione, hanidreshet, che è necessaria, ben chalav le ben basar, tra latte e carne, mechayevet gamken, e fa sì che ci sia anche bisogno, l'esigenza di rechishat, l'acquisto di ma'arachot nifradot, di, come si dice, set diversi per ciò che riguarda il pentolame, keilim, la bishul, per ciò che riguarda il pentolame per la cottura, afia, il cuocere in forno, tigun, friggere, vehagasha, e per servire anche, kasher kol sug, in maniera che ogni tipo, quindi ogni cosa che appartiene o al mondo della carne o al mondo del latte, sia mezuhè, sia ben identificato e identificabile, un meuchsan benifrade, anche volendo, se possibile, anche messo via quando lo si mette immagazzinato, diciamo, nella cucina, in un armadio, in un cassetto, in maniera separata, e anche nella pulizia, questo è molto importante. Ve'af menuche be'emzaim uvetalich, e anche che sia pulito con gli elementi, quindi la spugna, uno per il carne, uno per latte, eccetera. Uvetalich amavtichim shelo itarbeva echad mishneu. Tutto volto a creare una situazione in cui ci sia meno possibile confusione, quindi meno possibile problematica di che un elemento sia. Si perda tra gli oggetti dell'altro, che un elemento di carne non si perda tra le cose del latte e viceversa. Ora, è anche consigliabile che quando si acquista ciò che serve per mangiare a tavola, le posate, eccetera, che siano abbastanza diversi per poter facilmente vedere la differenza e non incorrere in errori. Perché Premetto subito che anche qualora si dovesse incorrere in errori, questo non significa che bisogna prendere e buttare tutto. Molto spesso si può rimediare dopo che succede qualche tipo di confusione e vedremo anche magari diverse situazioni un po' più avanti. Ora, mahalei halav, cibi a base di latte, u mahalei basar, cibi a base di carne, rabbim u meguvanim, molti tipi. Grande varietà, olim al shulchan achila, finiscono sul nostro tavolo dove mangiamo. Alcuni, yesh mehem, alcuni di questi, nechalim, chamim, sono mangiati, vengono mangiati quando sono caldi. Yesh tzonenim, tzonen è l'opposto di cham, quindi temperatura freddo o ambiente. Alcuni sono meluchim, alcuni sono salati. Alcuni sono shemenim, alcuni sono grassi, alcuni sono kevushim, sotto sale o sott'olio, quindi imrotev o biladav, sotto con salamoia o olio o senza, quindi messi sotto sale. E tutti questi elementi sono importanti per eventuali situazioni di problematica halachica. Yesh ha-nechalim bikli, alcuni elementi, alcuni cibi si mangiano con uno strumento, con un utensile, come una forchetta, mentre altri si mangiano con le mani, via sbagliato. Per questo motivo, visto che ognuno di questi elementi che abbiamo qui menzionato va ad incidere su eventuali problematiche alachiche, se si bisogna trattare in un modo o in un altro, di conseguenza è ancora più importante al Ken, perciò, chovale hakpid. È obbligatorio fare attenzione, Bezeirut Rabbah, fare molta attenzione, alla Frada Muhletet su una totale separazione, ben sughe amachalim, tra i tipi di cibo, almenat le avtiach per poter garantire et achilatam be kashrut, per poter garantire il mangiare in maniera kasher nelle nostre case, chi delle halan come ora siamo per entrare un pochino nel dettaglio. Quindi, la prossima voce è questa. Riguarda l'attenzione al non far sì che ci sia contatto fisico tra due cibi, che uno è di latte e uno è di carne. Quindi questa cosa qui, chovat hazehirut, l'obbligo di fare attenzione, le balyigu, che non ci sia contatto, Mahalei halavu, mahalei basar, ze base, tra cibi di latte e cibi di carne gli uni con gli altri. E in A, questa attenzione non è solamente al shulchan achila, solamente quando siamo a tavola dove si mangia. Veachen, e difatti, asru chachamim, i maestri hanno vietato lehaniach basar ugvina di posare insieme carne e latte che shehem nogim ze baze, quando l'uno tocca fisicamente l'altro, quindi non un imballo, questo non si chiama toccare. Toccare si intende il cibo stesso, la fetta di carne che tocca la fetta di formaggio. Ok? Quindi questo sarebbe vietato a filu hem zonenim, anche se si tratta di cibi freddi o a temperatura ambiente, dove teoricamente non c'è una contaminazione vera e propria, perché non c'è calore, tuttavia la cosa sarebbe vietata, shema yavou leochlam, perché potrebbe incorrere la persona in un inciampo, quindi andando a mangiare uno di questi due elementi, quando c'è residuo dell'altro, che she davuk bahem ze mise, quando c'è possibilmente un residuo attaccato alla carne che è un residuo di latte o viceversa. E questo ovviamente sarebbe un problema. Ovviamente, se fossero caldi o anche salati, che il salato di un certo livello arriva, è considerato per l'alacà caldo, per ciò che riguarda il trasferimento, la contaminazione tra un tipo di cibo e l'altro, quindi la cosa sarebbe ancora più. L'attenzione sarebbe ancora maggiore, ma questo è valido anche appunto quando parliamo di cibi freddi. Per questo motivo, al Ken, En la hanicham yachad non vanno messi insieme due tipi di cibo diverso di questo esempio, al gabei hashayish, sopra il tavolo di lavoro, il piano di lavoro, o madafshe ba mekarero baron, oppure sulla mensola dell'armadio o del frigorifero, mibli le afrid benehem kanidrash, senza che siano ben divisi tra di loro, che questo essere ben divisi può semplicemente voler dire essere coperti in un tipo di imballo, in un contenitore, in una carta stagnola, in una pellicola, quello che sia. Quando andiamo a fare la spesa, beet arichat kniyot, nel momento in cui si fa la spesa, chovah lehizaher, anche in questo caso bisogna fare attenzione, beati fata mozzarim ha-shonim, riguardo a diversi prodotti che potrebbero essere venduti in maniera sfusa e non imballati, quindi bisogna fare attenzione agli imballi, e specialmente se si tratta di cose umide o bagnate, bifrat kshem lachim, soprattutto quando si tratta di cose umide, o sham nuniyim, o cose grasse, o nemesim, o cose che potrebbero sciogliersi come il gelato. Quindi, per esempio, se io vado a comprare il gelato, ma compro anche il pane, e il pane si vende normalmente, lo prendo dal forno sfuso, quindi non è imballato bene, chiuso, e magari un po' di gelato, halavi, di latte può colare, si scioglie e potrebbe colare sul pane, questo pane diventa halavi, diventa un problema mettere a tavola questo pane, come vedremo più avanti. Quindi sembra una cosa stupida, però in realtà è una cosa che potrebbe essere comune in determinate circostanze, in determinati contesti. Quindi uno qui si dà anche un consiglio pratico, uno prende con sé un po' di buste di plastica in più e così può separare meglio le cose. Vetovlitz tayed merosh, uno potrebbe fornirsi, tra virgolette, a priori, besakiot o atifot, con delle bustine, eccetera, betere miozim la ricat kniot, prima di andare appunto a fare la spesa. Ora noi qui giriamo la pagina e procediamo sulla prossima voce. Per ciò che riguarda cibi che siamo abituati a lavare o a sbucciare prima di mangiarli, mozzarei mazon, prodotti di cibo, sherigilim leshotfam, per i quali c'è l'abitudine di lavarli bamaim, con l'acqua ovviamente, o le colfam, oppure di sbucciarli, betere machanatam la'achila, prima di iniziare a prepararli per il tavolo, kegon, come per esempio yerakot, la verdura, peirot, frutta, dagim, cos'è dagim? Pesce. Pesce o bassar, bassare carne, mutar bishe'at hatzoreh, in questo caso che comunque la cosa sarà sbucciata, o comunque la cosa sarà ben lavata, in quel caso mutar è permesso, bishe'at hatzoreh, qualora ci fosse la necessità, le'anicham yachad im machaleh chalav o bassar karim, di metterli insieme vicini a cibi di latte o di carne, viceversa, eccetera, qualora fossero freddi, chiaramente, ubitnaish yadichum lifnei ha-shimush, con appunto la condizione che siano ben lavati prima di essere messi, prima di essere usati. Quindi ciò, qual è il problema? Noi abbiamo detto è vietato mettere insieme due cibi, uno di carne e di latte, perché ci potrebbe essere residuo di uno sull'altro, e uno potrebbe mangiare carne e latte insieme perché per un problema di residuo rimasto. Però, qualora si trattasse di cose che comunque vanno sempre lavate o sempre sbucciate, allora il problema è minore, perché ovviamente bisogna fare attenzione a lavare o sbucciare, però ci appoggiamo a questo comportamento normale che normalmente è in uso per quel determinato tipo di cibo. Meidach, d'altronde, mozzarim, altri tipi di prodotti, kegon vuol dire per esempio, divrei mafè, cose cotte al forno, come pane o pasticceria o biscotti, mamtakim sheinam atufim, oppure delle cose dolci, come A volte si comprano i cioccolatini sfusi o le caramelle sfuse, no? Vecado me simile. En la niham yaha di manal. Non vanno messi insieme con prodotti di carne o di latte, anche se uno avrebbe in mente di poi lavare o sbucciare. Afilu mit konenim la diham le kolfan. Shema nishkach. Perché forse la persona avrà una dimenticanza e non si ricorderà di lavare o sbucciare quella cosa che normalmente non si lava e non si sbuccia. Quindi, venavoli dei sur, potrebbe arrivare a un divieto di appunto mangiare insieme carne e latte, perché non siamo abituati a togliere per così dire, la parte esterna del pane prima di mangiarlo, non è una cosa normale. E di conseguenza non ci appoggiamo a questa facilitazione, se non che nel caso in cui si tratta appunto di nuovo di qualcosa che normalmente va lavato o sbucciato. Ora, se si tratta invece di cose chiuse in contenitori, allora lì è molto più semplice. Mutar sarebbe permesso le haniach ze bezaze di mettere uno accanto all'altro, che lì un contenitore o arisa o qualche tipo di imballo, sgurim hetev, ben chiusi, sheyesh betocham chalavi o Bessari, all'interno dei quali, cioè all'interno dei quali contenitori ci sia un elemento di carne o un elemento di latte, afilu shenehem bekufsachat, anche se entrambi i contenitori si trovano in un unico grande contenitore, in un'unica scatola, letteralmente, o al gabei otom madaf, o sulla stessa mensola, come nel frigorifero, e così via. Ulekatkhila, a priori, yeshlivdok, bisogna controllare, shem skurim o mechusim etev, che siano ben chiusi i relativi contenitori. Secondo alcuni maestri, è sufficiente che uno dei due contenitori sia coperto bene, perché già questo garantisce una mancanza di contatto, diciamo così. Uleinian mekareru makpi, per ciò che riguarda il frigorifero e il freezer, il congelatore, non è spiegato qui, è stato spiegato in un precedente capitolo, ma il discorso è simile. Non è necessario, come molti credono, tenere due frigoriferi, uno per la carne e uno per il latte, e va benissimo un unico frigorifero. L'importante è che i cibi siano chiusi in relativi contenitori o in balli, anche ponendoli sulla stessa mensola. L'attenzione che dovrebbe essere, diciamo, presente nel caso del frigorifero è soprattutto per elementi, per esempio, come latticini, magari un contenitore di yogurt aperto, una bottiglia di latte posata, e magari non c'è spazio nella porta nel metterla per dritto e la si poggia. Sdraiata, diciamo così, sulla mensola, in questi casi c'è molto spesso il rischio che cola, che gocciola un po' di yogurt, un po' di latte, e lì bisogna fare attenzione che sotto non ci sia qualcosa di carne. Questa è una cosa che è molto pratica e può accadere soprattutto quando ci sono bambini che vanno a vedere cosa succede in frigorifero, quindi è una questione di praticità, di vedere, di gestire ognuno come può, secondo quello che ha in frigo, ma non c'è nessun problema di usare lo stesso frigo, anche la stessa mensola, se le cose sono chiuse e non c'è contatto diretto. Ora abbiamo un'altra halakha molto importante che riguarda il pane. L'obbligo di separazione tra carne e latte fa sì che ci siano delle halakhot che riguardano la cottura del pane. Il pane con cosa si mangia? Col carne o latte? Si mangia con entrambi. Di conseguenza, i Chachamim hanno imposto delle regole che riguardano la preparazione del pane, che dovrebbe sempre essere idoneo per mangiare sia o con la carne o con il latte. Pure dolci e biscotti. Ora vediamo. Asru, se questo si applica anche a dolci e biscotti, vediamo subito. Asru Chachamim, i maestri hanno vietato Lefot lechem di cuocere, preparare pane, bechalav, con nell'impasto del latte o behemah o del burro, quindi rendendolo in qualche maniera un pane a base, per ciò che riguarda l'alakha, a base di latte, mechashash per la paura, per così dire, shema yavou leochlo in basar, forse sarà mangiato per sbaglio assieme alla carne. Inoltre, la stessa cosa è valida anche per il contrario, non si cuoce il pane con... Se fosse unto con un grasso a base di carne. Vehuhadin, e la stessa regola si applica, shelo lefot lechem, di non cuocere il pane, beshuman besari, con un grasso di carne, afilu shel of, anche se è solamente di volatile, che è vietato mischiarlo con il latte solo, come abbiamo visto, midrabbanan, per la regola rabbinica, ma non la regola della Torah. Comunque, anche in quel caso sarebbe vietato, mechashash leachilato in gevinah vechalav, per la paura di arrivare a mangiare quel pane insieme a formaggio o latte o qualche latticino. Ela imken be'echad min ha'ofanim abaim. Ci sono delle condizioni che, se fossero presenti queste condizioni, è permesso creare un pane a base di latte. Quali sono queste condizioni? Vediamo subito. La prima condizione che sheyesh la pat tzura shona umeyuchedet. Qui l'ultima riga sulla pagina 98, quando il pane ha una forma diversa e particolare. E la forma ti aiuta a ricordare che questo pane è diverso. E quindi, se vai a mangiarlo con la carne, dici: no, questo è un pane di latte. Per esempio, alcuni usano fare un pane di latte in una forma che non si farebbe normalmente, come la forma del numero 8. Prendi l'impasto e lo fai a forma del numero 8, che non è un impasto, che non è una forma normale per il pane. Questo perché questo funge da segno di riconoscimento che si tratta di qualcosa di diverso. Quindi questo potrebbe andare bene, ma questo va bene solamente se la forma è stata preparata al momento dell'impasto, non che inforni il pane normale e poi lo tagli in un altro, in un'altra forma. Deve essere stato già infornato con una forma particolare. Ok? Questa è la prima condizione. La seconda condizione nelle fotocopie è saltata fuori, però ve lo dico a voce, è che il pane sia un impasto dolce simile a un impasto di un dolce, quindi più dolce del normale, più zucchero, più miele, quello che è, essendo un impasto dolce che non è normale mangiare un pane dolce con la carne, allora anche questo funge da segno di riconoscimento. Ok? E quindi da questo abbiamo capito anche che i dolci non rientrano in questa regola del pane. È possibile fare dolci a base di latte, l'importante è che la persona lo sappia e lo sappia indicare. Bene che sia anche riconoscibile in qualche maniera, però non rientra nella stessa rigidità della regola che c'è sul pane vero e proprio, per ciò che riguarda la pasticceria e i dolci. La terza condizione, che farebbe sì che sia possibile cuocere un pane a base di latte, è la seguente: Kasher kol hapat te'achel. Qualora tu prepari il pane secondo la quantità che sarà consumata in un unico pasto, cioè tu prepari il pane per questo pranzo specifico, la quantità necessaria per questo pranzo specifico, e dopo questo pranzo sarà finito il pane, non sarà messo via, allora questo sarebbe permesso. Ok? E c'è una differenza qui tra la regola come impostata dagli poskim sefarditi e quelli ashkenaziti. Per i poskim sefarditi deve essere barucha achat, libne sefarad barucha achat, in un unico pasto, cioè la quantità necessaria per questo unico pasto per il quale stai preparando questo pane. Mentre libne ashkenaz, per gli ashkenaziti, il pane deve essere la quantità di quel giorno, cioè può essere anche per due pasti o tre pasti, ma solo per quell'unico giorno. Le meshe haruchot oto yom bilvad. quel giorno stesso e non preparato questo giorno per domani, ma è comunque la quantità per quel giorno. Ma per i sefarditi, appunto, può essere solo la quantità di quel unico pasto per il quale stai preparando quel pane. Allora, secondo queste condizioni, cosa succede? Ci è permesso di preparare pane a base di latte o con una base di o con un ingrediente di latticino come il burro. Cosa succede nel Parliamo sempre momento? riguardo di preparare, non di cottura. Come? Parliamo sempre riguardo al preparare, non di cottura. O nell'altro. No, poi non posso Preparazione e usarne il cottura. forno di carne. Sto parlando Allora, riguardo alla giustamente preparazione. Donato fa presente che anche bisogna fare attenzione a che forno, dove inforni questo pane a base di latte. Chiaro che deve essere un forno in cui puoi mettere un elemento di latte. Certo, chiaro. Allora, cosa succede se su del pane normale si va a colare su questo pane un po' di latte o un po' di yogurt o quello che è? O al contrario, un po' Cioccolata, no, no, di sugo di di carne, sugo sugo di della carne. carne, no? Quindi vediamo. Nishpach Chalav, se va a colare. A riversarsi sul pane del latte o rotev vassar o il sugo della carne al gabè alechem sopra il pane. Allora è chiaro che il pane non diventa vietato. Afshe alechem atzmo lo nesar. Il pane non è che adesso lo devi buttare. Però yesh la sot heker, bisogna fare un segno di riconoscimento shelo yavou leochlo imamina sheni, perché non sia mangiato con l'altro elemento. Quindi, se sul pane è colato un po' di sugo della carne, bisogna in qualche maniera fare un riconoscimento che non sia mangiato con il latte. Quindi, qui facciamo l'esempio opposto. Al Ken, perciò, Kikarot, delle pagnotte, Shenishpach alehem betaut chalav, sulle quali per sbaglio è stato versato del latte, Yesh leochlam tekef umiyad, bisogna mangiarli subito. Come nella condizione che abbiamo detto che è permesso tenere questo pane per la quantità di un unico pasto, quindi bisogna mangiarli subito. Se non è possibile, per la quantità magari è troppo, o le chalekam, o appunto distribuire questo pane, le kam mishpachot sheyochlum be'oto yom, anche a diverse famiglie, perché sia consumato questo pane solamente in questo giorno. Sì? Per ipotesi, solo per ipotesi, togliere la parte bagnata, sporca, non è possibile. No, non dico che non è possibile. Potrebbe anche essere possibile. Se tu hai un pane grande e solo una parte è interessata da questa goccia di sugo della carne, puoi togliere quel pezzo e assicurarsi che quel pezzo sia mangiato oggi o in questo pasto, il resto rimane ok. No, È più complicato se fossero delle pagnottine piccole, magari tu cosa fai? Ricavi un pezzo, però se è un pane casareccione, certo, puoi togliere la parte interessata e l'altra parte rimane pane normale, parve. Sì, giusto. In generale, per ciò che riguarda sempre il pane, yesh le yached sakin miuchedet lechituch lechem. Questo si usa comunque in moltissime famiglie, ma è anche una questione alachica di avere di dedicare un coltello specifico solamente per tagliare il pane. Velehimana milishtamesh ba lezore chituch mazon chalavi o besari, e di evitare di usare questo coltello del pane per tagliare elemento carne o elemento latte che non è pane. In questa maniera il coltello rimane parve e rimane solo per il pane. Che mochen, e quindi anche yesh leakpid, bisogna fare attenzione, le shotfa. Quando si lava questo coltello, lo si lava da solo, bifnei atzma, non insieme alle cose che si lavano di carne o di latte. Bifrat, che shemishtamshim ladachat hakelim b'mayim rotchim, in particolare quando per lavare le cose si usa acqua calda. Quando uno usa acqua calda, allora c'è contaminazione, c'è contatto tra un elemento e l'altro. Quindi questo coltello del pane va lavato a parte, in modo tale che non ci sia un rischio di contaminazione dalle altre cose presenti nel lavandino, che siano di carne o di latte. Quindi questa regola va anche oltre, e vediamo, questa è l'ultima halakha che studiamo oggi, la seguente. En livzo alechem besakin halavit lezore charucha besarit. Se io devo tagliare del pane con un besakin halavit, con un coltello di latte, però perché lo devo tagliare? Lezore charucha besarit, per un pasto di carne. Il coltello è halavit, e il pasto sto mangiando Besari. Allora, in teoria, che problema c'è? Il coltello è freddo, il pane è freddo, non c'è residuo di latte. Io sto mangiando di carne, però tutto, non c'è nessun contatto con il latte. Taglio il pane perché non trovo un altro coltello, con un coltello di latte. No, non si dovrebbe fare. Afilu asakin valechem karim. Anche se tutti gli elementi sono temperatura ambiente o freddi, perché teoricamente potrebbe esserci residuo sul coltello, residuo grasso che è più difficile togliere. A livello pratico, se si fa così, non diventa taref, rimane tutto kasher e puoi mangiare, se il coltello è pulito, puoi mangiare quel pane anche con la carne. Non è diventato halavi. A priori bisognerebbe evitare questa cosa per non entrare in confusione o per appunto la paura dell'eventuale residuo. Ma se effettivamente il residuo non c'è e tutto è freddo, niente è diventato vietato in questa situazione. Cioè, il pane è il pane normale, lo tagli con un coltello pulito di latte, prendi quella fetta di pane e la puoi mangiare con la carne. Però a priori va evitato questo comportamento per non incorrere in eventuali problemi. Lo stesso discorso da evitare se il pane, anche che ne so, lo taglio con le mani, e da evitare anche se io ho mangiato, cioè sulla tavola c'era del cibo di carne e dopo voglio mangiare il latte, da evitare lo stesso. Allora, da evitare, tu hai il pane a tavola in un pasto di Sì. carne, non hai finito tutta la pagnotta, la metti da parte e poi nel prossimo pasto che è di latte vuoi mangiare il pane. Puoi, basta che fai attenzione. Non è che il pane diventa di latte o di carne, se non, appunto per questo il coltello si cerca che sia Se appunto scoltello lo neutro, taglio un parve, po' con le se mani. tagli con le mani, anche lì fai attenzione, le mani sono pulite, allora rimane di carne. Oppure togli il primo strato, se hai paura che le tue mani erano unte con il sugo della carne o il grasso o qualcosa, allora togli il primo pezzo e il resto rimane parve. È una cosa che ognuno deve vedere sul posto e giudicare secondo la situazione. Allora, grazie della partecipazione, Grazie a te, Ralf. grazie a voi tutti e se ci sono anche domande virtuali, potete scrivere nei commenti, cercherò di rispondere tempestivamente. Una buona giornata. Grazie.